Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Andrei Andreevich Tarkovsky per parlare del suo film Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera. Ben trovato. Grazie, grazie per l'invito. Raccontiamo brevemente a chi ci ascolta quest'opera? Sì, certo. È un film che racconta la storia, la vita e l'opera di mio padre in una maniera abbastanza insolita, ovvero raccontata dall'autore stesso. È una registrazione di varie interviste, un racconto fatto da Tarkovsky di se stesso. Come è nato il progetto? Ho cominciato a lavorare sul film molti anni fa, nel 2003. Il progetto aveva un'altra forma, un vero documentario basato sulle interviste, incontri e sui testi del martirologio, che sono i diari di mio padre. Però nel frattempo, per i problemi di budget, abbiamo dovuto fermare le riprese e la lavorazione. Negli ultimi anni sono venuto a contatto lavorando sugli archivi qui a Firenze, con le varie registrazioni che mio padre conservava, quindi incontri con il pubblico, interviste, lezioni di cinema. E infatti ho pensato di utilizzarli, in quanto negli ultimi anni ci sono stati fatti molti studi sull'opera di Tarkovsky, molte teorie, molti scritti, film, eccetera. Fare un altro film sembrava abbastanza inutile. Però dietro a tutta questa quantità di informazioni, di studi, forse la figura di Tarkovsky veniva un pochino dimenticato in qualche modo, forse il suo messaggio, le sue idee erano state un po' perse, quindi ho voluto avvicinare lo spettatore più possibile alla sua figura e incontrarlo di persona in qualche modo. Lavorando su tutto questo materiale d'archivio, che impressione ne hai ricavato? Sono più di 600, quasi 900 ore di registrazione, un archivio ricchissimo. Ciò che nel film è solo una piccola parte. Credo che questo film aiuterà anche poi a pubblicarne anche in una forma cartacea di questo materiale, che lo trovo molto importante, soprattutto per gli studiosi, per i giovani si avvicinano alla sua opera, che lo studiano e vogliono conoscerlo. Non ho scoperto grandi novità dal punto di vista delle opinioni, visioni, perché mio padre era molto chiaro già nel suo libro Scolpire il tempo, di finire la sua teoria del cinema, il suo modo di vedere l'arte, ma comunque concentrato in questi 90 minuti del film le sue idee, la sua profonda fede, la ricerca della spiritualità viene fuori con una forza maggiore rispetto agli altri scritti. E della sua opera cosa ami particolarmente? Questo film anche è un tentativo di far ricordare alle persone l'atteggiamento che un artista deve avere rispetto alla propria opera, rispetto agli altri, che per mio padre l'arte era non era soltanto un linguaggio, un modo di autoespressione, era, come diceva lui, era una preghiera, era un modo di conoscere il mondo tramite l'arte. Anche lui cercava di capire quello che è l'esistente, e poi anche un grande umiltà, quello che lui definiva il cinema come preghiera, cioè quindi porsi davanti allo spettatore, all'arte, come un servitore, come quasi uno schiavo, una persona che serve il proprio talento sacrificando tutto il resto. Questa è una grande lezione di atteggiamento per noi artisti, che oggi l'arte viene interpretata molto spesso come un mezzo per autoaffermarsi, parlare di sé e guadagnare, ma queste sono tutte quelle cose che lui ignorava e credeva che un vero artista deve fare questo. Considerati anche poi tutti i suoi spostamenti, i suoi trasferimenti, qual è stato il suo rapporto con il suo paese? Io credo che tutta l'opera di Tarkovsky è frutto di una grande cultura e tradizione russa che risale a Dostoevsky, quindi lui è figlio anche della serie Brinilek, cioè del secolo d'argento, quella rinascita spirituale e filosofica dell'arte e della cultura russa del fine 800 e primo 900, che ereditò a sua volta dal padre, Arseni Tarkovsky, grande poeta. Infatti il linguaggio poetico di mio padre è molto simile alle poesie e al linguaggio di mio nonno, c'è una grande influenza poetica nella sua opera. Quindi è un artista russo, assolutamente russo, anche se ha dovuto lasciare la Russia, è rimasto russo, anche se cercava sempre una sintesi nelle proprie opere, citando gli artisti, filosofie di tutto il mondo, ma comunque come atteggiamento, come una visione, come figura dell'intellettuale era assolutamente russo, certamente. Che forme hai pensato di distribuzione per questo lavoro? Beh, il film è distribuito in Italia dalla Lab 80, sono anche distributori di film di mio padre, quindi esce nelle sale il 20 gennaio. Mm-hmm. In quante sale sarà? Questo non lo so, a differenza al distributore, so che adesso questa settimana, il 13, abbiamo fatto la prima a Firenze, fino a domenica c'è il film qui in sala al Teatro della Compagnia, e poi verrà via via distribuito in varie città italiane. Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera, al cinema da lunedì 20 gennaio 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Andrei Andreevich Tarkovsky. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo. Con Gianfranco Pannone, regista del documentario Scherza con i Fanti, al cinema da giovedì 16 gennaio 2020. Gianfranco, ben trovato. Eccoci, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Ah sì, volentieri. È un film documentario che va un po' a completare quello che di fatto è un dittico. Tre anni fa, poco meno di 3 anni fa, io e Ambrogio Sparagna realizzammo Lascia stare i Santi, adesso è la volta di Scherza con i Fanti, che è un film che abbiamo presentato alle giornate degli autori a Venezia a settembre scorso e che adesso esce finalmente nelle sale. È un viaggio nella coscienza, a volte cattiva, a volte no, degli italiani, rispetto all'amor patrio, la guerra, i militari, il senso del dovere. È un viaggio attraverso i viali di guerra, attraverso le musiche di Ambrogio Sparagna, scritte da Ambrogio Sparagna ma anche selezionate tra i canti popolari e il repertorio del Luce, che racconta forse una singolarità, un aspetto tutto italiano, che forse noi italiani non sappiamo di essere dei portatori di pace in qualche modo. Abbiamo vissuto 2000 anni di violenze inaudite, di guerre, di pestilenze, di invasioni, e tutto sommato non ci va molto di essere dei guerrieri, magari dei guerrieri anche patriottici. Questo è un po' quello che proviamo a raccontare. L'hanno fatto ovviamente straordinari maestri come Monicelli, appunto, io penso pure all'Armata Brancaleone, piuttosto che appunto alla Grande Guerra, Rosi con Uomini e No, Olmi, Dottor Nerani Prati. C'è sempre questo rapporto difficile. Noi l'abbiamo voluto raccontare attraverso relazionarsi dei canti popolari con i diari. I diari di guerra che appartengono a più epoche, che arrivano fino a un diario di guerra di oggi, anche di un soldato che è andato in missione di pace, quindi rappresenta sicuramente un'altra Italia, diversa da quella di un Carlo Malgoffo che magari dalla Valtellina andò con l'esercito regio, con regio esercito, fino a Ponte Landolfo, in provincia di Benevento, in una di quelle imprese antibrigantaggio che furono molto frequenti all'indomani dell'Unità d'Italia, e partecipò a uno dei più grandi eccidi di civili avvenuti appunto dopo il 1860. Sono storie diverse che ci raccontano una vicenda che è quella italiana, che è particolare, che ci permette di poterci forse considerare, anche perché c'è una cultura cristiana sicuramente che può condizionare le vicende di 2000 anni, come dire, magari quella cristiana francescana, intendo dire, insomma, ci possiamo considerare, come dire, possibili portatori di pace in un clima particolarmente acceso, che è quello di oggi, che è quello del rischio di nuove guerre, insomma. Quello che proviamo a fare, in poche parole, Ambrogio, è una sorta di messaggio di pace, provando a trovare le cose buone della nostra storia, della nostra cultura, ovviamente attraversando anche delle pagine dannate, anche delle pagine disgraziate come quella del colonialismo italiano. Come era nato il progetto? Il progetto è nato con l'idea di provare a scavare la cultura popolare del paese. Io considero Ambrogio Sparani una sorta di albero di canto, no? come diceva il Barto, che c'è una persona che ha delle radici, che può trasmetterci queste radici in un'ottica nuova. Con Ambrogio c'è un vecchio sodalizio. Avremmo voluto fare un film sulle tradizioni musicali nel sud che si chiama Suona So, se non che non riuscimmo a fare questo film, e allora mi viene in mente di rilanciare questa idea di dittico. Però abbiamo preferito cominciare con i Santi, appunto Lascia Stare i Santi 2 anni fa, un viaggio nella religione popolare, in vista di una chiave anche laica, ma insomma dove c'è il rispetto in qualche modo per una religione popolare che aveva delle sue ragioni d'essere. Questo ci ha portato automaticamente al secondo film che abbiamo realizzato sempre con l'Istituto Luce Cinecittà, che è un viaggio forse un po' più complesso, perché è un viaggio nell'identità italiana, perché siamo un popolo strano. A me non dispiace il fatto che noi non siamo un popolo guerriero, come si potrebbe dire di altri magari popoli, non mi dispiace affatto, no? Ovviamente questo ne paghiamo anche le conseguenze, anche una certa ambiguità. Siamo il paese che è entrato in guerra nel 1900 due volte in ritardo, nel 15 anziché nel 14 e nel 40 anziché nel 39. E quindi vuol dire, ci sono anche delle cose da farsi perdonare, però insomma, c'è questo aspetto importante che non è quello degli italiani brava gente, ma una sorta di pietas che deriva dal dolore e che, se la leggiamo un po' junghianamente, ci appartiene a tutti, ci portiamo anche dentro il dolore dei nostri avi che hanno veramente subito la fame, le pestilenze, le guerre. Che tipo di distribuzione avete pensato con l'Istituto Luce? La distribuzione di un documentario non è mai una cosa facile, si comincia da Roma, il 16 usciamo al Cinema Nuova Aquila e all'Apollo 11, il 16 ci sarà anche un evento come Ambrogio Sparagna che suonerà, il 16 alle 21 a Nuova Aquila, e un altro evento ci sarà l'Apollo 11, domenica 19, sempre alle 21, con me e Ambrogio. Dopodiché ci sono 25 piazze che ci aspettano, da Milano a Genova, da Torino a Bologna, da Perugia, Firenze, Ancona, Latina, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tante piazze, in alcune il film rimarrà in tenitura, come si dice, a Milano, a Genova, a Formia, anche c'è questa cosa curiosa di Formia, ma quella è la terra di Ambrogio Sparagna, quindi ci sta, a Latina, lì sono cresciuto io, e a Roma, appunto nelle sale che citavo prima. E poi nelle altre città ci saranno gli eventi, e a volte li accompagnerò io, a volte li accompagnerà Ambrogio, ma sarà insomma un bel viaggio, un bel tour. C'è una pagina Facebook, un sito internet per saperne di più? www.cinecittaluce.it. Poi se per un po' di informazioni potete andare sulla mia pagina Facebook oppure sulla pagina di Ambrogio Sparagna Fan Club, lì troverete un po' di informazioni su quello che sono appunto il nostro tour, insomma. Sai, è una cosa strana, ci si sente a metà strada tra un commesso viaggiatore è un po' un attore in tournée, insomma, no? Però è molto bello perché si gira l'Italia, si incontra tanta gente, si capiscono molte cose e si tasta anche il polso, insomma, no? Perché un film documentario è un po' un animale delicato, insomma, va un po' seguito, non può essere lasciato subito con le proprie gambe. Scherza con i Fanti al cinema da giovedì 16 gennaio 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Gianfranco Pannone. Grazie, Gianfranco, a voi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, a presto, grazie. Il regista Duccio Chiarini sul suo documentario Marco Polo, un anno tra i banchi di scuola, al cinema da giovedì 16 gennaio 2020. Duccio, ben trovato. Ciao, ben trovato. Ci racconti di questa avventura? Sì, è una cosa strana, perché l'anno scorso, attraverso una conoscenza che avevamo in comune, che poi tra l'altro è Michele Nocchio, la distributore dello stesso anno. Michele gestisce la sala stessa di Firenze e da qualche tempo si è giunto anche con la distribuzione. Dopo Michele è venuto a fare incontrare me e Ludovico Arte, che è il preside di questa scuola molto grande alle porte di Firenze, che si chiama Marco Polo, e c'era l'idea di provare a raccontare generale la scuola, quello che è la scuola italiana oggi, in particolare quelli che sono alcuni percorsi che sta facendo il Marco Polo, attraverso una forma narrativa cinematografica, in qualche modo l'idea era un po' così vaga, e poi parlando assieme a Presidio ho proposto un documentario molto semplice di osservazione, però mi è andato sul presupposto che io passassi tanto tempo con loro. E quindi ho passato effettivamente qualche settimana a muovermi senza registratori di nessun tipo tra le aule. E poi, dopo aver fatto questa grande ricerca di situazioni, di classi, di dinamiche, abbiamo scelto assieme ai miei collaboratori 7-8 classi e le abbiamo accompagnate. Siamo stati insieme a loro per 5 giorni al mese, da novembre fino agli esami di maturità. Questa settimana che noi mensilmente passavamo in questa scuola era l'occasione per guardare tante cose che si svolgono nella vita della scuola. Poi la scuola è strana, se fossi avendo passi 13 anni, 10 anni, poi esci e non ti capita più di tornarci perché tu non sei un insegnante. Quindi da queste settimane passate all'interno di questo ambiente poi è nato tutto, abbiamo filmato tantissimo, abbiamo accumulato tanto materiale, come normale che sia, e da lì poi ho ricostruito un po' il montaggio, il filo di questa storia che è al cinema in questi giorni. Ecco, rispetto alla tua esperienza scolastica, com'è stato questo tornare a scuola? Che impressioni ne hai ricavato? Ma è molto interessante. Io devo dire che con la scuola ho sempre avuto un rapporto molto buono, nel senso che mi sono sempre sentito a casa, a scuola. Non è mai stato un luogo da cui fuggire, che mi ha particolarmente schiacciato, anzi, ho avuto la fortuna di trovare scuole ottime, professori ottimi sul mio cammino, che anzi mi hanno stimolato e valorizzato, perché non ho avuto un rapporto troppo conflittuale. Il minimo di conflitto, certo, è quasi fisiologico, per come era pensata anche l'educazione, forse anni fa, quando mi sono diplomato, però è stato un ambiente stimolante. E devo dire che rispetto a quello che è stata la mia esperienza di studente, un po' perché è una scuola completamente diversa, un po' perché sono passati 20 anni, questo anno stato a scuola è stato caratterizzato da situazioni diverse, nel senso che il metodo educativo è completamente diverso, ma soprattutto anche l'atteggiamento dei professori verso il proprio lavoro, un atteggiamento forse direi più insicuro, dubbioso, lo dico non come una forma di critica, c'è una grossa analisi dei professori su se stessi. Dovessi scegliere una scena del documentario che mi ha particolarmente colpito, quella in cui questo gruppo nutrito di professori, saranno una quarantina, si ritrovano un pomeriggio a parlare di quello che è il senso del loro lavoro, a confrontarsi, è una specie di forma di analisi di gruppo che trovo difficoltà ad immaginare proiettata vissuta dai miei professori di allora. C'è questa fase dell'incertezza rispetto al senso dell'educazione è vissuta in maniera molto profonda dagli insegnanti. Che forma hai voluto dare alle riprese? Ma fondamentalmente è un documentario molto semplice, non ci sono personalizzazioni di nessun tipo, non si seguono le vite di nessun studente, di nessun professore. È un documentario sulla scuola intesa come organismo che si sveglia e che ha delle sue, oltre alla sua quotidianità, un suo metabolismo, vissuta veramente un po' come un documentario di osservazione, insomma, classico. Si passa da una situazione all'altra, da una classe all'altra, ma anche da, per esempio, abbiamo stato molto tempo in presidenza o molto tempo dietro agli custodi, cercato proprio di cogliere l'atmosfera, determinati aspetti che mi affascinavano della scuola, ossia se la famiglia è il luogo dove noi impariamo l'idea di privato, la scuola è il luogo dove impariamo il pubblico, e quindi io questo tema del pubblico l'ho tenuto sempre al centro della mia ricerca, quindi bene, facendomi guidare parole chiave come cittadinanza, storia, società, politica nel senso più alto del termine, non polemica quotidiana, ma politica come forse un concetto che può racchiudere quegli altri tre che ho appena enunciato. Quindi ho prediletto nelle lezioni di storia, di italiano, di alcune assemblee, alcuni momenti di formazione dei professori, cercato, ecco, di non, come regola che mi ha dato era semplicemente quella di non uscire mai dalle quattro mura dell'edificio, di non parlare di nessuna particolarmente, di nessuna vita particolare, e poi di tenere sempre appunto questo sguardo su questi temi. Sentendo queste tue parole mi viene in mente che, in base anche alle grosse trasformazioni della società che ci sono stati in questi anni, anche rispetto al periodo scolastico da te vissuto e anche alla presenza invasiva, penso alla rete, a internet, e secondo te la scuola continua ad avere una centralità educativa? È una bella domanda, è una sfida molto difficile, perché direi a livello antropologico quella dell'insegnante rispetto alla soglia di attenzione, che è un tema, voglio dire, citerei la famosa battuta di Woody Allen, dove dice che è tutto fatto all'incontrario, bisognerebbe andare a scuola quando abbiamo 60-70 anni, poi in pensione quando ce ne abbiamo 10-20, e effettivamente è strutturato in maniera un po' non vederlo da fuori, l'idea di tenere dei ragazzi nel passo della loro esplosione bloccati su dei banchi 6-7 ore al giorno è cosa, no, di fisiologicamente difficile. Poi con la velocità e l'associazione al cellulare stesso, al computer, quello di catturare l'attenzione è una missione complessa. In più, a livello culturale, ne parla spesso, però effettivamente la figura del maestro, del professore, che è una figura di prestigio e di valore, questo prestigio e questo valore, come l'autorità paterna, lo ha perso. Indiscutibilmente queste due cose sommate una all'altra rendono veramente la sfida dei professori una sfida eroica, cioè tutti i giorni grandissima ammirazione per questo tipo di professione, perché veramente ha i limiti dell'impossibile, ecco, esercitarla senza che magari gli insuccessi ti possano travolgere personalmente. Un saluto e un ringraziamento al regista Duccio Chiarini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie mille, un abbraccio, ciao. Il regista Duccio Chiarini sul suo documentario Marco Polo, un anno tra i banchi di scuola, al cinema da giovedì 16 gennaio 2020. Con Maud Corino, coordinatrice della sesta edizione del mese del documentario, in tour in 7 città italiane dal 28 novembre 2019 al 27 gennaio 2020. Maud, ben trovata. Grazie. Raccontiamo il mese del documentario per chi non lo conoscesse. Certo, è un'iniziativa di DocKit, l'associazione dei documentaristi italiani, che è nata, insomma, per diffondere il cinema del documentario, ha la particolarità appunto di svolgersi non in una sola città, ma di essere un festival itinerante, e quindi comincia da Roma e poi, insomma, prosegue in una serie di città dal nord al sud Italia, da Milano fino a Palermo. Iniziamo il 28 di novembre con un film, un documentario siriano